Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, come purtroppo avevamo anticipato, e spiace dire che ci abbiamo visto giusto, dopo l'annuncio la settimana scorsa della Banca Centrale Europea che saranno aumentati i tassi di interesse ad aprile, probabilmente a questo punto il mercato, tutti i mercati si stanno muovendo e, come già raccontavamo ieri, limitando l'analisi però al Portogallo e alla Grecia, oggi invece è anche la volta della Spagna. Non si può, a mio avviso, parlare di attacco vero e proprio, perlomeno non fino adesso, sulla scia di quanto invece è avvenuto a marzo e aprile, quando ci fu un'ondata speculativa sulla Grecia e poi sull'Irlanda, il Portogallo e la Spagna. Però oggi il là all'aumento dei tassi di interesse, o meglio di quanto rendono le obbligazioni spagnole, lo ha dato l'agenzia di rating, ossia le agenzie che danno i voti sui debiti sovrani oltre che sui debiti privati. L'agenzia di rating, dicevo, Moody's, che ha abbassato il voto della Spagna portandolo a AA2 per farci capire l'ha portato al livello dell'Italia, però con prospettive negative. E la Spagna, interessante questo, perché la Spagna ha un debito che è molto inferiore a quello italiano. Il debito pubblico in percentuale al PIL in Spagna è il 56%, da noi è il 115% del PIL. Sul deficit la Spagna invece è messa peggio, perché l'anno scorso ha fatto meno 11,8% nel 2009, scusatemi, e meno 5% fece invece l'Italia. Questi sono i dati del 2009. Anche nel 2010 la Spagna comunque è risultata in recessione, per cui l'abbassamento del voto spagnolo è quanto mai sintomatico, perché viene dato a un paese che non ha un debito obiettivamente così alto rispetto al PIL, ce l'hanno molto più alto oltre che l'Italia altri paesi, e mi riferisco per esempio alla Gran Bretagna, ma anche, non parliamo poi della Grecia e dell'Irlanda. Il Portogallo stesso ha l'80% di debito rispetto al PIL prodotto. Eppure la Spagna è quella più compromessa, secondo Moody's, in questo momento, perché le casse di risparmio spagnole potrebbero creare un buco che a questo punto viene valutato in maniera molto molto ampia, cioè dai 20 miliardi nella versione minima ai 40 miliardi, fino, dicono sempre le agenzie di rating, a 100 miliardi nell'ipotesi peggiore. Sono cifre colossali, chiaramente soprattutto quella dell'ipotesi peggiore. Le conseguenze sui mercati sono presto dette: Milano perde l'1,6%, Parigi l'1%, Francoforte l'1,30%, Londra perde l'1,44%. Praticamente a Milano di positivo c'è solo Ansaldo STS più 0,60%, Autogrill più 0,50%. Fondiaria SAI invece cala oggi, meno 4,80%, cala ST Microelectronics meno 3,70%, Tenaris meno 3,40%, Fiat Industrial, ossia i camion e i trattori, meno 3%, Fiat Auto meno 2,80%, Exor meno 2,70%, Diasori meno 2,60%, Mediolanum meno 2,5% come Generali e Pirelli. Il 2,3% lo perde anche Enel Green Power, il 2% Ubibanca e Finmeccanica, l'1,80% il calo di Mediaset e di Unicredito, l'1,70% quello di Intesa San Paolo e di Saipem, ma anche di Mediobanca. Enel meno 1,5% come A2A e Telecom Italia è anche in pregilo. Eni meno 1,1% come la Popolare di Milano. Sono vendite, come sentite, generalizzate su tutti i settori. L'euro è sceso sotto il 4,38 a 1,37,9, anche questo come effetto, diciamo, di un indebolimento delle prospettive sull'area euro. Sui paesi cosiddetti marginali, non li chiameremo mai pigs, perché è un termine osceno, perché vorrebbe dire in inglese porci, sarebbe l'acronimo di Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, mi sembra veramente offensivo. Chiamiamoli paesi dell'Europa, i paesi non al centro dell'Europa, quindi Spagna, Spagna, Irlanda, Grecia, Portogallo. E anche sull'Italia si sono mossi i rendimenti, gli spread, non a livello preoccupante. Adesso comunque lo racconteremo nel nostro primo tema di apertura. Poi parleremo chiaramente, oltre che della borsa, anche del tema che riguarda le energie rinnovabili, perché su questo ci sono state varie dichiarazioni, e avremo un approfondimento sul brevetto europeo. Ricorderete, insomma, l'Italia e la Spagna non vogliono che passi una norma europea che prevede che i brevetti vengano registrati in tre lingue, francese, tedesco e inglese. Hanno posto il veto. A questo punto, per aggirare il veto, i vari paesi europei si sono messi a fare i cosiddetti accordi bilaterali, accordi di cooperazione rafforzata, per cui tra singolo paese e singolo paese, in questo modo aggirando di fatto la norma. Da noi c'è più di una perplessità su questo modo di operare, anche perché l'Italia rischia di essere pesantemente penalizzata da un brevetto fatto a questo punto nelle tre lingue principali. Ancora c'è chi dice che il 115% è un po' basso sul debito italiano sul PIL, era riferito al 2009 il dato, è vero che si è alzato al 118,2, quasi 119 nell'ultimo analisi e rapporto della Banca d'Italia. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Allora partiamo come sempre dai mercati internazionali e come sempre in questi giorni dal petrolio, che è in calo a New York, ha perso il 2%, è sceso a $101,88 al barile. Il motivo qui si chiama deficit, il primo deficit commerciale della Cina. Perché? Perché a febbraio la Cina ha segnato, come differenza tra quanto ha esportato e quanto ha importato, un deficit di 7 miliardi e 300 milioni di dollari. Questo perché le importazioni sono cresciute del 19%, le importazioni sono invece cresciute solo del 2%. La cosa interessante è che la Cina non è abituata ad avere un deficit nella bilancia commerciale, e ne parleremo più avanti, perché insomma al di là di un insieme di cause anche contingenti, insomma, il deficit è il più alto, commerciale cinese è il più alto da 7 anni ed è il primo deficit commerciale in 11 mesi. C'è un motivo però anche strutturale, anche la Cina è il primo consumatore al mondo di materie prime, e quindi l'aumento dei prezzi delle materie prime, petrolio e gas, ma anche le materie prime di carattere alimentare e non solo, hanno contribuito non poco al peggioramento del deficit commerciale cinese e al dato appunto più alto da 7 anni a questa parte. È vero, prima che me lo scriviate, che hanno inciso anche le vacanze in Cina legate al capodanno lunare cinese, però insomma il segnale va guardato con attenzione, perché se confermato poi anche a marzo sarebbe un'inversione di tendenza epocale. Epocale perché vuol dire che la Cina sta consumando più di quanto esporta, sta importando più di quanto esporta, e cambierebbe completamente la prospettiva verso l'economia cinese, fino a questo momento data come grande concorrente, nemico, diciamo, di altri paesi produttori, soprattutto quelli europei. Adesso arriviamo anche alla produzione industriale italiana, ma un attimo, perché vorrei darvi un aggiornamento anche sul petrolio come inteso come Brent, quindi petrolio del Mar del Nord trattato a Londra, anch'esso in calo a $113,9 al barile, un calo di quasi il 2%. Se la Spagna soffre molto, e tutte le economie europee dei paesi cosiddetti marginali stanno soffrendo oggi, chi non soffre è la Germania, e lo si dimostra non solo dai dati sul PIL e dai dati sulla produzione industriale, ma anche dai dati dei grandi gruppi tedeschi, a partire da quelli del settore auto. La Volkswagen ha detto che entro il 2018 assumerà, quindi creerà, 50.000 posti di lavoro in più a livello mondiale, non tutti in Germania. Lo ha dichiarato il presidente della Volkswagen, Winter Kolm, ricordando che l'obiettivo è aumentare di 10 milioni la produzione di veicoli da qua al 2018 e far crescere l'utile del gruppo Volkswagen dell'8%. la Volkswagen, quindi Wolfsburg, vuole diventare il primo gruppo produttore di auto, quindi leadership mondiale nel 2018, investirà, pensate, nel settore auto 53 miliardi e mezzo di euro entro il 2015, a cui si andranno a sommare 10 miliardi e 600 milioni di investimenti diretti solo in Cina, dove la Volkswagen è il marchio europeo più venduto. Nel frattempo anche la BMW ha segnato nel 2010 un utile da record, quasi 3 miliardi 230 milioni di euro contro gli appena 210 milioni di utile nel 2009, un utile sopra le stime. Gli analisti stimavano un utile della BMW a 2 miliardi 900 milioni di euro. E ricordo che la BMW ha diffuso i dati ieri in cui venivano stimate le immatricolazioni di auto in rialzo del 21,7% a 111.700 auto immatricolate come marchio BMW, come marchio del gruppo BMW, scusatemi, quindi Mini, Rolls Royce e la stessa BMW. E veniamo all'Italia prima di passare al tema di apertura e quindi al rating spagnolo abbassato oggi da Moody's e a quella che è la prospettiva sui vari debiti dei paesi più a rischio in Europa. Allora, secondo il Consiglio Nazionale della Ricerca e anche secondo il CNEL, in 10 anni le spese di governo in Italia sono cresciute del 226%, a fronte di una crescita del PIL nominale, quindi in euro, del 157%. Praticamente, se le spese di governo fossero cresciute come è cresciuto il PIL italiano, avremmo risparmiato 30 miliardi di euro. Veniamo, come annunciato, la produzione industriale italiana. A gennaio in calo dell'1,5% rispetto a dicembre, un leggero aumento rispetto al gennaio del 2010 dello 0,6%. Il Centro Studi Confindustria stima una crescita, invece un piccolo rimbalzo della produzione industriale nel mese di febbraio dell'1,7%. E poi ascolteremo le dichiarazioni, lo ascolteremo nella seconda ora del programma, del direttore generale di Confindustria, Giampaolo Galli, su quanto rischi di pesare lo shock petrolifero sulla ripresa italiana. Con un greggio a $115, detto Galli, avremo un calo dello 0,7% del PIL, cioè verrà perso lo 0,7% del PIL nei prossimi 2 anni. Delle rinnovabili parliamo più avanti, abbiamo preparato anche una scheda, c'è stato oggi tutto un insieme di dichiarazioni, perché da un lato c'è una lettera che in teoria doveva restare riservata da parte delle banche straniere in Italia, le abbiamo contattate, non vogliono parlare, lettera inviata al sottosegretario della Presidenza del Consiglio Gianni Letta. Le banche estere riunite nell'AIBE dicono sostanzialmente che di essere molto preoccupate non solo per il blocco di finanziamenti al settore delle rinnovabili, ma per l'affidabilità in generale del legislatore italiano. E in sostanza, traduco, le banche estere hanno finanziato investimenti sul fronte delle rinnovabili in questo paese, con quello che è successo col decreto che rinvia ad aprile per capire esattamente a quanto ammonteranno gli incentivi, fino a che tetto saranno erogati, con che riduzione verranno poi erogati negli anni successivi. Tutto questo getta incertezza sul settore e le banche estere si lamentano. Tra l'altro, oggi in un'intervista a Repubblica, il vicepresidente di Confindustria Samuele Gattegno aveva definito catastrofico il decreto sulle rinnovabili. Dopodiché oggi è uscito una nota dello stesso Gattegno, che è presidente del Comitato per la Sicurezza di Confindustria, che ha precisato che le dichiarazioni riportate nell'intervista esprimevano considerazioni di carattere esclusivamente personale e imprenditoriale, non avendo delega in materia, non stava interpretando, ha detto Gattegno, la posizione ufficiale di Confindustria. E mentre il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo ha criticato le banche estere in Italia, ha detto il solito classico atteggiamento delle banche che non ci piace e non c'è ragione non avere fiducia in una legge dello Stato che entro il 30 aprile ci sarà un nuovo quadro di incentivi e quindi i programmi di investimento potranno andare avanti, il presidente del Consiglio Berlusconi ha aggiunto oggi sulle rinnovabili che gli incentivi devono comunque adeguarsi all'andamento degli altri paesi europei. Il boom del settore fotovoltaico e quindi degli incentivi dati al fotovoltaico, 2 miliardi e 4 complessivamente, non tutti al fotovoltaico, determina un aggravio sulle bollette dei cittadini. Dell'ISVAP e RC Auto parleremo più avanti, perché ci sono dichiarazioni anche del presidente dell'ANIA, Cerchiai, ha detto insomma non ho visto ancora nulla, non c'è nessun elemento per cui dovremmo abbassare i prezzi. L'ISVAP, che è l'autorità di vigilanza sul settore assicurativo, ha oggi dato sanzioni per ha annunciato che combinerà sanzioni ad almeno 7 compagnie assicurative, sanzioni che andranno dai 7 ai 35 milioni di euro per aver violato l'obbligo a contrarre la polizza RC Auto. Qual è l'accusa? Sono compagnie di assicurazione che, in particolar modo nel Sud Italia, praticano nei confronti dei giovani tariffe elevate in maniera anormale sostanzialmente, e che per la loro entità, dice l'ISVAP, possono costituire una modalità, un modo per eludere l'obbligo di offrire ai cittadini che lo richiedono una copertura RC Auto. Quando la copertura RC Auto è così cara e così alta, questa è l'accusa dell'ISVAP, è un invito indiretto ai cittadini a eludere l'obbligo ad assicurare l'auto. Ci torniamo su questi temi. Adesso però il primo tema di apertura, e quindi dopo l'Irlanda, la Grecia ieri e il Portogallo ieri, come ieri anticipavamo in trasmissione, anche se ancora non c'erano stati dei segnali chiari, ci abbiamo visto giusto, oggi è toccata alla Spagna. Eh sì, è toccato la Spagna, perché l'agenzia di rating Moody's ha tagliato il voto della Spagna, portandolo da AA1 a AA2, il che significa, per far capire a tutti, il livello che ha l'Italia sul suo voto. AA2, pur avendo, ripeto, la Spagna un debito che è del 60% del PIL, l'Italia ce l'ha al 119% nel 2010. La cosa più preoccupante è l'outlook, ossia la prospettiva negativa sul debito spagnolo, e Madrid a questo punto ipotizza di dover intervenire a sostegno delle casse di risparmio locali, che sono il vero problema. Non sono le grandi banche spagnole, non è il gruppo Santander o il Banco di Bilbao Vizcaya, sono le casse di risparmio locali. Secondo il governo di Madrid costerà 20 miliardi di euro l'operazione, secondo Moody's invece costerà almeno il doppio, dai 40 ai 50 miliardi, con un massimo di 120 miliardi nello scenario peggiore. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento, da un lato, il corrispondente del Sole 24 Ore della Spagna, Michele Calcaterra, buonasera. Buonasera a voi. E dall'altro anche l'amministratore delegato di una delle tre agenzie di rating a livello mondiale che danno i voti ai debiti, oltre che dei privati, anche degli stati, Marco Cecchi de Rossi, numero uno di Fitch Italia. Buonasera, dottore. Buonasera a voi. Allora, sappiamo che voi, ognuno di voi lavora non guardando quello che fanno gli altri. Però ci può dire quali sono le vostre prospettive sulla Spagna, se condivide quantomeno il ragionamento che la parte debole, il ventre molle, sia rappresentato dalle casse di risparmio? Sì, è assolutamente condiviso per quanto riguarda il settore finanziario, il settore bancario in Spagna. Ancorché il governo spagnolo sia intervenuto decisamente, sia attraverso la costituzione di appositi strumenti, sia attraverso proprio cambiamenti delle regole anche di vigilanza, è quello il settore che ancora, non in tutti i suoi componenti, ma in una parte dei suoi componenti non poco significativa, ha ancora dei problemi di capitalizzazione rilevanti. Ecco, su questo, dottor Cecchi de Rossi, la cosa interessante, a mio avviso perlomeno, è la differenza tra quanto dice il governo di Madrid e quanto stima l'agenzia di rating Moody's. Vorrei sentire quello che è la vostra stima, cioè quanto costerà salvare o ripianare i debiti delle casse di risparmio che, se ben ricordo, poi avremo conferma anche da Michele Calcaterra, si sono un po' impelagate con la gestione degli asset immobiliari oltre che del credito al consumo. Ma la vostra stima è più sui 20 miliardi o sui 40 e 50 che stima Moody's? Senta, innanzitutto, come lei ricordava, ma tengo a precisarlo, noi non facciamo, insomma, non lavoriamo con target, quello che fanno le altre agenzie di rating. Comunque, siccome proprio oggi, il 10 marzo, anzi, è uscito un nostro rapporto sulle stress test interni fatti da Fitch applicati alle banche, le posso dire che in generale per il settore CAS, che sono circa il 39% del totale del sistema bancario in Spagna, si stima un importo di circa un po' meno di 20 miliardi. Quindi voi siete più sulla definizione del governo spagnolo? Non so se l'ha data al governo, comunque il nostro è un test autonomo che facciamo avendo, diciamo, una larga copertura di rating delle banche, sia grandi sia anche delle CAS. Allora, poi, dottor Cecchi di Rossi, arriviamo invece a quello che è successo, come sempre in questi casi, purtroppo, al debito degli altri paesi europei, ossia misurando il rischio attraverso quanto rendono le loro obbligazioni rispetto a quanto rende l'obbligazione tedesca, il cosiddetto spread, e quanto costa la polizza, il premio sulla polizza assicurativa, come noi chiamiamo i CDS, i credit default swaps, per assicurarsi contro un crack di Spagna, Irlanda, Portogallo. E anche l'Italia oggi è un po' salita quanto a spread. Ma prima di tutto, Michele Calcaterra, la Salgado, che è il ministro dell'economia spagnolo, se ne è uscita con dichiarazioni molto forti. La Spagna è rimasta un po' sorpresa a questo abbassamento di rating? No, non sorpresa dall'abbassamento, perché Moody's aveva già detto a dicembre dello scorso anno che le prospettive erano negative, per cui prima o poi avrebbe ritoccato a ribasso il rating. Sorpresa dal timing, nel senso che, sapendo che oggi pomeriggio siamo in attesa nelle prossime ore, minuti, secondi, non so quando che la Banca di Spagna dia il dato del fabbisogno del settore bancario, insomma, uscire la mattina con un annuncio di questo tipo, insomma, una doccia fredda, uno schiaffo in faccia, quantomeno un timing che ha lasciato l'amaro in bocca agli spagnoli, ecco, questo sì, ma la sorpresa è relativa, sorpresa del timing più che della misura adottata. Allora, siamo in grado di farvi sentire anche quello che ha dichiarato poco fa il ministro Salgado. Mi toccherà tradurlo a braccio, Michele, poi tu mi correggerai, il mio spagnolo fa oggettivamente schifo. Comunque sentiamo cosa ha detto la Salgado. El déficit de las comunidades autónomas, creo que ahí efectivamente tenemos que hacer más esfuerzos para tratar de que ese déficit se reconduzca, y lo tienen que hacer sobre todo las comunidades autónomas. Allora, dice la Salgado, per quanto riguarda i deficit delle casse di risparmio, effettivamente dobbiamo fare più sforzi affinché si riducano, ma li devono fare le casse di risparmio stesse. Per quanto riguarda la decisione di Moody's, non sono d'accordo con quello che ha detto l'agenzia di rating e ritengo che i dubbi dell'agenzia di rating si sarebbero dissipati semplicemente se avesse aspettato i risultati che fornirà nel pomeriggio la Banca di Spagna, e la previsione di un costo di 20 miliardi da noi verrà mantenuta. Quindi, come tu anticipavi, Michele, è seccata soprattutto perché non ha aspettato la Banca di Spagna. Sì, posso farti una precisazione? Quello che diceva Salgado, almeno in quell'estratto che hai mandato in onda tu, diceva che devono fare uno sforzo le regioni di ridurre il loro deficit. Bravo, hai fatto bene a correggere il mio spagnolo. No, che solo dire, poi ha detto anche le casse, però voglio dire, lì si riferiva alle regioni che hanno un deficit che sta un po' sparando verso l'alto. Quindi anche loro hanno un problema di patto di stabilità interno, come si chiama a casa nostra. Esatto. Michele, possiamo ricordare, visto che lo chiedono molti ascoltatori al 349-238-6666, qual è il motivo che ha creato questo buco nelle casse di risparmio? Perché per anni abbiamo detto la Spagna ha delle banche sane, e ci riferivamo a quelle più conosciute. Beh, insomma, come è successo un po' da noi, le casse di risparmio poi erano le banche dell'economia locale, legata molto quindi alla produzione, alle regioni, e quindi anche delle casse che hanno sofferto di economie molto ristrette, ma soprattutto il fatto che comunque subivano, diciamo, l'influsso politico locale, quindi hanno sostanzialmente si sono esposte verso rischi che in realtà non avrebbero dovuto sopportare. Questo ha fatto sì che con l'esplosione del settore immobiliare si siano impegnate fortemente nel mattone e ora paghino questo loro impegno in questo settore, ma anche hanno dato crediti a pioggia, appunto, in maniera clientelare a gente che probabilmente non meritava questo. Tutto questo, se è con lo scoppio della bolla immobiliare, con la crisi, è venuto al pettine, il nodo è venuto al pettine e ora si ritrovano, alcune si ritrovano veramente messe male. Questo l'abbiamo capito, perché 20 miliardi non è poca cosa, sono quasi un paio di manovre finanziarie in Spagna. E poi piove sul bagnato, perché la Banca Centrale Europea oggi si è svegliata, ha detto insomma, le riforme della governance economica europea possono fare molto, ma la possibilità di una futura crisi del debito sovrano, quindi di crack proprio dei debiti sovrani, non si può escludere completamente. E tocca risvegliare un nostro amico che era in settimana bianca. Era un po' che non tornava il nostro gufo, ma se non è una gufata quella di oggi della Banca Centrale Europea, non so cosa lo possa essere. Michele Calcaterra, grazie. Invece chiedo al presidente numero uno di Fitch Italia di restare in collegamento con noi. Abbiamo il metro, la pubblicità, perché dalla Spagna vorrei allargare il ragionamento invece a quello che è successo ai rendimenti obbligazionari e ai CDS degli altri paesi ritenuti più a rischio nell'area europea. 349-238-6666 per i vostri sms. La risposta dopo il meteo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, al numero uno di Fitch Italia, ossia una delle tre agenzie di rating, quelle che danno i voti ai debiti, vorrei chiedere la seguente cosa, dottor Cecchi De Rossi. Voi avete un voto sulla Spagna che in realtà è ancora un po' più alto dell'Italia. Ricordo che si fosse messo in collegamento che oggi invece Moody's ha abbassato il voto spagnolo portandolo a livello italiano. Prevedete o ci sono le possibilità che venga portato il voto sul debito spagnolo a livello di quello italiano, che se non ricordo male è una doppia a meno per voi? Guardi, può succedere di tutto, dipende dall'orizzonte di tempo. Nel breve il rating per la Spagna a lungo termine è doppia più con prospettive negative, che vuol dire che nel giro di fra uno e tre semestri, dipendendo dalla velocità insomma e dall'evoluzione del ciclo, questo outlook può risolversi o in una stabilizzazione oppure portare a un downgrade. Quindi per il momento la situazione della Spagna è questa. Può succedere che la Spagna scenda, può succedere che l'Italia salga. È l'orizzonte. Quale prevede più possibile? La prima o la seconda? In questo momento può darsi che l'Italia, è più probabile che la Spagna scenda, ma non a livello di rating dell'Italia in questa fase. Quindi è due gradini sotto quello della sì. Spagna. Cioè le dice da doppia A più la Spagna potrebbe scendere a doppia A. O è più facile che scenda la Spagna a un livello più probabile. Sì. No, vabbè, facile non è facile niente questo mondo, però è più probabile che scenda la Spagna che non salga l'Italia come voto. In questo momento sì, perché le prospettive per noi dell'Italia sono stabili, mentre quelle della Spagna sono negative. Non ho capito se devo sentirmi bene o male, cioè se in compagnia della Spagna oppure no, ma voi in nessun modo prevedete prospettive invece positive sull'Italia, cioè che possa esserci un aumento del voto nell'arco dei prossimi mesi per l'Italia, detto per inciso? Allo stadio, come dicevo, le prospettive sono stabili e ovviamente verificheremo, dato che rating comunque sono delle opinioni su posizioni relative dei rischi, verificheremo nei prossimi mesi quello che succederà agli altri rating sovereign simili a quelli dell'Italia e vedremo quello che se ci sarà qualcosa da fare in un senso o nell'altro, dico, ma non è che questo problema si può porre diciamo su base quotidiana. No, ma ci mancherebbe, se no facciamo un appuntamento fisso. No, interessante capire però che ci sono più possibilità che scenda il voto spagnolo che non salga quello italiano. In questa fase. Veniamo agli altri paesi, perché come ricordavo, dopo l'abbassamento del voto da parte di Moody's al debito spagnolo, il rendimento il rendimento comprato come titolo difensivo, cioè il Bund tedesco, per essere proprio chiari, l'obbligazione tedesca, ha perso 4 centesimi. Cosa vuol dire questo? Che viene ritenuta ancora più affidabile. La differenza tra quanto rende il BTP tedesco, chiamiamolo così, e il BTP spagnolo è al 5,5%, ma il premio sul rispetto al Bund sale a 222 centesimi. La cosa importante, al di là dei numeri, è capire che il livello più forte è lo scorso 31 gennaio. Lo spread, anche qui la differenza tra quanto rende l'obbligazione portoghese, in questo caso l'obbligazione tedesca, viaggia al 4,2%, è al 6,2% nel caso di Irlanda, cioè la stessa obbligazione irlandese a 10 anni rende il 6,2% in più rispetto a quella tedesca, al 2,2% appunto per la Spagna e all'1,7% per l'Italia. Nel frattempo però, dottor Cecchi De Rossi, sono schizzati i CDS sulla Grecia. Il CDS è quella polizza assicurativa che uno sottoscrive quando vuole proteggersi dall'investimento sul debito di un paese. Il premio di questa polizza, come per noi automobilisti, dà la misura di quanto è a rischio quel paese. I CDS sulla Grecia sono schizzati a 1000 punti, un record storico. Di nuovo torniamo a parlare di Grecia? Grecia noi ce ne occupiamo, diciamo, su base costante. E devo però fare un'osservazione che sembra di metodo ma è sostanziale, cioè l'indicazione che danno questi prezzi, che non sono altro che prezzi di mercato, sono indicazioni valide spot per transazioni fra parti che chiudono un contratto in un certo momento, quindi evidentemente riflettono le aspettative di queste parti e o la forza negoziale relativa di queste parti, ma non necessariamente sono dei buoni predittori dell'evoluzione di un rischio. Quindi possono avere degli effetti, possono subire degli effetti momentanei e questo è un dato, è un fatto, è che hanno una volatilità veramente eccezionale, soprattutto in particolari periodi, quindi attenzione a basare decisioni profili di rischio, decisioni con orizzonti a un termine, diciamo, di qualche mese, basandosi su quelli che sono prezzi di mercato spot. Allora, nel frattempo oggi il ministro delle finanze greco, Giorgio Papakonstantinou, ha chiesto all'Unione Europea, tra l'altro nel prossimo vertice straordinario che sarà convocato, se abbiamo ben capito, se verrà confermato il 21 marzo, un Eurogruppo straordinario proprio per discutere delle tensioni sui debiti sovrani, ha chiesto all'Unione Europea di discutere urgentemente il comportamento delle agenzie di rating. Vi sentite un po' responsabili dell'effetto amplificatore sui mercati? Decisioni, opinioni o prese di posizioni che ci riguardano. Quindi voi andate avanti per la vostra strada, giusto? Al di là di quello che sarà la decisione europea? No, noi stiamo in sui mercati, come dire, rispettiamo le regole che ci vengono date e tutto qua. Ecco, un'ultima domanda, dottor Cecchi De Rossi. Che cosa dovrebbe o potrebbe decidere l'Unione Europea, il vertice dell'Eurogruppo il prossimo 21 marzo, per farvi cambiare idea, a voi come Fitch, chiaramente voi parlate solo per Fitch, cioè quale, il fondo europeo di salvataggio già c'è, l'abbiamo visto in azione sia sulla Grecia che sull'Irlanda soprattutto, ma che cosa potrebbe cambiare le prospettive in senso positivo come iniziativa europea, se c'è qualcosa? Ma questo è sicuramente che sia poi il 21, il 22 o il 23 cambia poco. Dicevo, questo è sicuramente un momento importante anche per chi guarda, diciamo, con prospettive abbastanza lunghe, perché si tratta di completare quell'inizio costruzione di meccanismi di sostegno e miglior controllo anche, che è stato già cominciato ma che è rimasto, se vogliamo, un po' a metà strada. Quindi proprio quelli che saranno i dettagli e l'operatività del European Stability Mechanism, il successore dell'attuale European Financial Stability Facility, saranno cruciali per orientare le percezioni che varie parti del mercato hanno sull'evoluzione del rischio sovereign, non solo tanto per quanto riguarda l'Europa, che ovviamente è i paesi che fanno parte dell'Eurozona, che ovviamente sono i primi interessati, ma proprio per questo gioco delle posizioni relative dei rischi, queste decisioni andranno poi a impattare su profili di rischio di altri emittenti valute, dagli Stati Uniti alla Cina, No, capito, voi vorreste che i meccanismi automatici fossero ancora più implementati, ancora più rafforzati, in modo da garantire il famoso cordone di sicurezza. Mi dice una cosa... Guardi, l'automaticità in politica non esiste. No. Si può dire che sono automatici e poi mettere delle clausole che rendono questa automaticità, se vogliamo, c'è già nell'attuale patto di Maastricht la stabilità, però poi ci sono sempre le clausole, i caveat dei vari paesi, perché poi certo. Le situazioni vanno gestite, quindi che siano i governi nazionali, che sia la Commissione Europea, che sia la Banca Centrale, c'è bisogno di principi e regole di comportamento adattati poi alle singole, alle situazioni che storiche che si presentano. Allora, il traffico, però una battuta la vorrei su un'agenzia, scusatemi il gioco di parole, appena battuta. L'agenzia di rating Standard & Poor's, oggi è il vostro giorno, l'altra agenzia, ha appena tagliato il voto sulla Libia, sul debito libico, portando la spazzatura, cioè da BB+ a BB++, vuol dire poco, vuol dire spazzatura. Allora, voi sulla Libia? Dunque, noi sulla Libia abbiamo fatto proprio recentissimamente un downgrade, portando un abbassamento di voto sotto l'investment grade. Di qualche giorno fa, ora la data ora a memoria non me la ricordo, ma è comunque il fatto, l'evoluzione degli avvenimenti in Libia è stata seguita attentamente. Ecco, bisogna tenere conto che fino all'inizio, diciamo, di questo nuovo ciclo politico in Libia, la Libia era un paese che non aveva un centesimo di debito in qualsiasi valuta. Vabbè, con tutto il petrolio e il gas che esporta. Ecco. Però è un dato di fatto. No, certo. Per cui è anche qui assistiamo a due cose strane. Un paese come la Spagna, che ha un debito molto più basso rispetto all'Italia, la metà quasi, si becca un voto che è vicino, in un caso identico, in un altro caso molto vicino a quello dell'Italia, proprio sulle prospettive. In un altro caso la Libia, che debito ne aveva pochissimo, se non zero, adesso è finita, sia per voi che per Standard & Poor's, a un livello sotto quello che voi chiamate investment grade, cioè sotto un livello consigliabile per un investimento. Ecco la definizione di spazzatura, che non è ancora default, però per essere proprio tecnicamente corretti, grazie a Marco Cecchi De Rossi, al numero uno, al presidente di Fici Italia. Mi scuso con i colleghi delle informazioni sul traffico per il ritardo, poi commentiamo la borsa, che ha chiuso con un calo dell'1,60%. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Oggi è una giornata in cui le notizie arrivano mentre siamo in diretta. Perché lo dico? Perché poco fa il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, parlando agli analisti finanziari di Snam Rete Gas, parlando agli analisti finanziari della controllata Snam Rete Gas, ha detto: se trovassimo un'opportunità per creare valore aggiunto con un premio rispetto al valore di mercato e con un compratore gradito al governo, potremmo considerare la vendita. Se vi fossero queste condizioni, potremmo considerare l'investimento, altrimenti terremo l'investimento in Snam Rete Gas. È una dichiarazione un po' diversa dal solito, una lunga discussione polemica quella su Snam Rete Gas e l'ENI. L'autorità ha chiesto la separazione tra rete e cosa viaggia sulla rete. A mia memoria è una delle prime dichiarazioni di Scaroni così possibilista, fermo restando che ha detto che bisognerebbe trovare un'opportunità per creare valore aggiunto con un premio rispetto al valore di mercato e con un compratore gradito dal governo, perché stiamo parlando di una rete di infrastrutture energetiche, quindi tema assolutamente sensibile a livello di sicurezza nazionale, se vogliamo dirla tutta. Adesso però la borsa. Borsa che oggi risente del tema a cui abbiamo dedicato l'apertura, quindi l'abbassamento di voto alla Spagna, il rischio sulla Grecia, le tensioni, il vertice d'emergenza convocato a Bruxelles sembra per il prossimo 21 marzo, -1,60 a Milano, -1% Francoforte, -0,70 Parigi e Londra perde come Milano, l'1,55%. Questa mattina va detto che Tokyo aveva chiuso in calo dell'1,40 e Hong Kong dello 0,80, l'America sta perdendo l'1,30%. Come sempre il collegamento lo facciamo con l'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Come mai l'Italia perde più di Francia e Germania? Beh, l'Italia bisogna dire che ieri era stato praticamente l'unico tra i listini europei a chiudere in rialzo, quindi in una giornata come oggi in cui, viste le motivazioni che hai ricordato, gli investitori hanno venduto, sono passati anche ai realizzi sui titoli che avevano sostenuto ieri e nei giorni scorsi in Milano. In particolare poi il peso di tutti i listini che hanno chiuso in calo, ad esempio quello dei finanziari e delle banche che a Milano sono stati tutti negativi, ha trascinato giù il listino anche Eni o colossi appunto come Eni. Tutto il settore energetico è in calo e i pochi titoli in rialzo non sono bastati a bilanciare la flessione di questi pesi massimi. Sì, pochi, pochissimi e con rialzi molto limitati. Mi riferisco a Ansaldo più 0,60, Parmalat mezzo punto, Autogrill più 0,40, Tod's più 0,30%. Allora Paolo, dopo il GR vorrei capire, chiaramente oggi le vendite hanno riguardato tutti i settori, c'è poi sempre la vicenda Fondiaria Sai, che oggi si chiama Milano Assicurazioni, che tiene banco. Dopo il GR 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dopo aver dedicato buona parte del programma al taglio del voto dell'agenzia di rating Moody's al debito spagnolo, che ha a catena e come effetto domino portato in alto i rendimenti di tutte le obbligazioni dei paesi considerati più a rischio, quindi Irlanda, ma soprattutto oggi Portogallo e Grecia e anche Spagna, e anche i cosiddetti CDS sono schizzati verso l'alto, nel caso greco a record, più alto anche di quando fu attaccato il debito sovrano greco nel marzo dell'anno scorso. La borsa ne ha risentito, ne hanno risentito però anche i mercati energetici, perché il petrolio continua a calare a New York a $101,8, siamo sempre a un 2,4% di calo, in calo anche il Brent di quasi il 2%, quindi il petrolio trattato a Londra a $113,9 al barile. Il petrolio in realtà cala non tanto e non solo per un timore di un rallentamento in Europa, quanto perché la Cina, lo ripetiamo, ha registrato oggi per la prima volta da 11 mesi un deficit commerciale, ossia ha importato più di quanto non abbia esportato, ma soprattutto questo deficit è il più alto come livello, sono 7 miliardi e 300 milioni di dollari, il più alto da 7 anni. È chiaro, anche qui ripeto, che essendo la Cina il principale importatore e consumatore al mondo di materie prime, petrolio, gas, materie prime, commodities classiche, commodities alimentari, l'aumento dei prezzi ha contribuito a peggiorare la bilancia commerciale cinese, ma c'è anche dell'altro, c'è le festività collegate al Capodanno lunare cinese, ma c'è anche il fatto che la Cina sempre di più consuma e in rapporto sempre di meno esporta, e questo come scenario andrebbe tenuto sotto stretta osservazione soprattutto dalle nostre imprese, che in questo caso della Cina possono avere più opportunità che rischi. Comunque la borsa, dicevamo, male oggi tutte le borse europee, Milano non fa eccezione, venduti tutti i titoli che erano cresciuti tanto, e quindi ST Microelectronics, Tenaris, il 3,7% di calo per ST, il 3,2% per Tenaris e anche per Fiat Industrial, il 3,1% per Prysmian e per Fiat, il 2,80% di calo per Diasorin, e il 2,6% per Exor, il 2,6% anche per Pirelli, il 2,4% per Enel Green Power. Visto che stiamo parlando di energia, poco fa sempre il numero uno dell'Eni, Paolo Scaroni, che sta presentando i conti agli analisti a Londra, ha detto che a giorni la produzione dell'Eni dalla Libia, la produzione di petrolio in Libia, non riferita all'Eni e basta, si fermerà molto presto, questione di giorni, ha detto Scaroni, che sempre pochi minuti fa ha detto che su Snam Rete Gas, se si trovasse una buona opportunità per creare valore aggiunto con un premio rispetto al valore di mercato e con un compratore gradito al governo, potremmo considerare la vendita di Snam Rete Gas. Ripeto, a mia memoria, mi sbaglierò, ma è la prima apertura così forte in questo senso. Allora, Paolo Paronetto, stavamo ragionando anche oggi di Fondiaria Sai, perché dopo il comunicato molto così molto temporeggiante ieri di Groupama, i francesi cercano di capire come entrare nel capitale del gruppo Ligresti senza dover lanciare un'offerta pubblica su Fondiaria e Suprema, fin come gli ha chiesto la Consob. Sì, esattamente, in questo scenario i titoli della Grazia e Ligrest si mantengono molto volatili. Ieri Fondiaria Sai è stato tra i migliori con un rialzo di oltre il 6%, oggi è in coda il FTSE MIB, ha perso appunto il 4,69%. Ieri appunto il CDA di Groupama ha affidato al direttore generale Jean Azéma il compito di studiare un nuovo accordo con la famiglia Ligrest che permetta di fatto di superare l'ostacolo posto dalla Consob, ma in attesa di capire che cosa succederà appunto il mercato rimane preda della volatilità. Lo dimostra in questo scenario il fatto che a fronte dei cali sia di Fondiaria Sai che di Premafin ha invece guadagnato il 2,54% la Milano Assicurazioni controllata da Fondiaria Sai. Secondo molti osservatori proprio la Milano potrebbe essere di fatto la soluzione della questione, infatti gli analisti osservano che un'eventuale vendita della Milano Assicurazioni ai francesi di Groupama potrebbe soddisfare sia le mire espansionistiche dei francesi in Italia sia fornire ai Ligresti i mezzi freschi di cui hanno bisogno, anche se la vendita della Milano non è per nulla facile visti anche i valori di carico che la società ha nei bilanci di Fondiaria Sai. Oggi i conti dell'Eni, Scaroni adesso li sta presentando agli analisti a Londra, comunque il dividendo del 2010 è a 1 euro per azione, l'utile a 6,3 miliardi di euro, di questo euro per azione che è il dividendo mezzo euro, 50 centesimi sono già stati distribuiti a settembre e sono tutte conferme, erano dati già annunciati a livello di preconsuntivo. Comunque Scaroni ha anche detto che il dividendo che l'Eni stima di poter dare si manterrà finché il petrolio, anche con uno scenario di un petrolio a 70 dollari al barile, e anche con un petrolio a 70 dollari al barile l'Eni ritiene di poter sostenere il dividendo, la politica del dividendo. Gli investimenti tra il 2011 e il 2014 saranno di 53,3 per la precisione miliardi di euro e la produzione di idrocarburi di Eni crescerà nel periodo 2010-2014 di oltre il 3%, e anche se la sospensione e sperando che la sospensione delle produzioni libiche sia temporanea, cioè la frase esatta dice Eni, questo obiettivo è raggiungibile sempre che la sospensione di alcune produzioni libiche sia temporanea. Il titolo in borsa. Eni ha chiuso anche lei in calo con un calo dell'1,01%, anche se la flessione è inferiore sia a quella dell'indice milanese sia a quella del sottoindice europeo dell'energia che ha perso l'1,87%. Naturalmente aspettiamo domani per vedere la reazione del mercato ai conti che appunto sono stati diffusi proprio nelle ultime battute della negoziazione odierna. Eh sì, ancora oggi conti anche per il gruppo CIR che ha chiuso il 2010 con ricavi a 4 miliardi e 8 più 12%, margini in crescita a 57 milioni di euro e torna al dividendo per il gruppo di Carlo De Benedetti perché il Consiglio di amministrazione proporrà una cedola di 0,025 euro per azione. Questi le trimestrali diffuse. Tra l'altro oggi abbiamo visto andare male particolarmente ST Microelectronics e Tenaris, mi ridai i commenti? Di Microelectronics ha risentito della debolezza dell'intero settore tecnologico dopo che il colosso statunitense Texas Instruments ha diffuso stime deludenti secondo gli analisti per il primo trimestre dell'anno. Ieri Texas Instruments ha perso oltre il 3% a Wall Street e oggi questa flessione ha riguardato quasi tutti i titoli del settore anche in Europa. Quanto a Tenaris invece sul mercato stanno circolando stime da parte di analisti che parlano di un calo della redditività rispetto ai target annunciati in precedenza a causa di un aumento dei costi e quindi in seguito a queste valutazioni alcuni investitori stanno decidendo di alleggerire un po' le posizioni sul titolo. Grazie, grazie Paolo Paronetto, Radio Cori Sole 24 Ore. Adesso c'è il traffico e poi fate notare che sono andate bene le società legate al dollaro che oggi si è rafforzato. Sì, bene, una parola grossa, comunque sicuramente Bulgari ha guadagnato lo 0,25, Toz lo 0,32, Autogrill lo 0,40. Ci mancherebbe il Parmalat bene più 0,50%, ci si avvicina al rinnovo dei vertici che è il prossimo 14 aprile. Tra i cali significativi alcuni citano anche Edison, sì, dice sempre l'ipotesi di riassetto del gruppo, e anche A2A oggi ha perso l'1,40%. Comunque traffico e poi il tema legato all'RC Auto, le prospettive dell'economia secondo Confindustria con col caro greggio e il tema dei brevetti industriali. Allora, partiamo dalla della dichiarazione dell'ISVAP, l'autorità di vigilanza sul mondo assicurativo, che ha detto stanno per arrivare sanzioni per almeno 7 compagnie di assicurazioni, sanzioni che andranno da 7 a 35 milioni di euro, quindi tanta roba. Per quale motivo? Per aver violato l'obbligo a contrarre la polizza RC Auto. Praticamente l'ISVAP, che ha aperto 14 istruttorie nei confronti di 14 compagnie di assicurazione, ha già avviato il procedimento sanzionatorio verso la metà di loro. Qual è l'accusa? Praticamente, visto che la multa va da 1 milione a 5 milioni di euro, ecco perché si dice da 7 a 35 milioni complessivamente. In sostanza, secondo l'ISVAP, si tratta di compagnie che praticano, in particolar modo nel sud Italia e nei confronti dei giovani, tariffe così alte che per la loro entità possono pertanto costituire una modalità di elusione dell'obbligo. Cioè, quando la tariffa è così alta diventa quasi un invito a non pagarla, questo dice l'ISVAP, soprattutto se la applichi a un giovane che sta al sud, e è un invito a eludere l'obbligo posto dalla legge di pagare le polizze RC Auto. Il presidente dell'ANIA, Paolo Cerchiai, sul tema, intervistato dal collega dell'agenzia di stampa Radio Coro Sole 24 Ore, Andrea Salomone. La diagnosi è sotto gli occhi di tutti. ANIA l'ha fatta a suo tempo, ISVAP l'ha rilanciata con maggiore autorevolezza in quanto autorità di controllo. 4 gennaio o i primi di gennaio siamo stati insieme al dottor Giannini, come voi ricordate, dal ministro Romani. Governo e Parlamento ci hanno detto che avrebbero cercato di fare tutto il necessario in tempi brevi. Sono passati 2 mesi, io non ho visto niente, forse sono stato distratto, ma continuo a non vedere iniziative parlamentari che indichino che si vuole realmente seguire le strade suggerite prima da ANIA e poi confermate da ISVAP. Crediamo invece che il problema delle RC Auto debba essere affrontato e debba essere affrontato nella sua realtà. L'Italia ha una sinistralità anomala rispetto a tutti gli altri paesi europei, sia in termini di numero che di costo dei risarcimenti, che è la ragione per cui abbiamo dei prezzi più alti della media europea. Ho un déjà vu, anzi ho 2 o 3 déjà vu, perché quando si parla del petrolio, della benzina che sale troppo velocemente, si dice che non è vero. Quando si dice che le banche concedono più facilmente credito ai grandi che ai piccoli, la risposta non è vero. E quando si dice che da noi le RC Auto costa troppo, al sud per i giovani, si dice sì, ma perché fate troppi incidenti. Insomma, è sempre, non è mai colpa di nessuno. Vabbè, sentiamo le previsioni invece sull'effetto che avrà il caro greggio sull'economia italiana. Le ha diffuse oggi il direttore generale della Confindustria, Giampaolo Galli, arrivando a stimare un impatto sul PIL di uno 0,7% in 2 anni, che a dire, se lo distribuiamo a metà, lo 0,3% in meno di crescita ogni anno. E allora Giampaolo Galli, intervistato dal nostro Vincenzo Miglietta. La valutazione poi degli effetti dipende fondamentalmente da quanto durerà questo aumento del prezzo del petrolio e di altre materie prime, comunque è un effetto negativo sull'economia. Fino adesso, devo anche dire, le prospettive congiunturali ci sembrano positive, cioè c'è una ripresa lenta, ma la ripresa c'è, questa è la cosa importante. Quali sono le negatività del sistema Italia rispetto ai concorrenti europei? Ma noi abbiamo un sistema che è cresciuto, un'economia che è cresciuta molto poco negli ultimi 15 anni e continua a crescere troppo poco. Questo ha a che fare con tantissimi problemi, il principale probabilmente è quello della burocrazia e della complessità delle nostre leggi e delle nostre regole, che rendono difficile muoversi, innovare, essere competitivi, andare sui mercati internazionali lavorando in un paese che ha a che fare con queste norme, con questa burocrazia. Ecco, le tensioni in Nord Africa, sempre sotto l'aspetto energetico, la preoccupano? Sarebbe, diciamo, è chiaro che è un problema, però mi pare anche che per quello che riguarda i rifornimenti energetici noi siamo tranquilli perché abbiamo fonti alternative che possono compensare, almeno per un certo tempo, le mancate forniture da parte del Nord Africa, in particolare della Libia. Così il direttore generale di Confindustria Giampaolo Galli. E adesso l'ultimo tema, vediamo se ce la facciamo a raccontarlo. In realtà è l'ennesima puntata di un tema che stiamo seguendo da mesi. Il tema si chiama brevetto europeo. In sostanza, la Commissione europea propone un sistema per brevettare i marchi, brevettare le innovazioni, basato su tre lingue per i brevetti europei: l'inglese, il francese e il tedesco. La Spagna e l'Italia pongono il veto, e se i paesi pongono il veto a livello comunitario non può passare la norma. Tutto a posto, quindi no. Perché a quel punto i paesi che sono d'accordo, cioè praticamente tutti i paesi tranne la Spagna e l'Italia, cosa fanno? Vanno avanti con la cosiddetta cooperazione rafforzata, cioè fanno accordi bilaterali in cui di fatto eludono il veto italiano e spagnolo e vanno a fare degli accordi per cui i brevetti, non so, tra Francia e Germania, tra Francia e Inghilterra saranno con le tre lingue. L'Italia aveva proposto di avere un unico sistema di registrazione basato solo sull'inglese. È anche vero però che la maggior parte dei brevetti registrati a Bruxelles, sono 68.000 ogni anno, vengono registrati dalla Germania e dalla Francia. L'impatto è sì politico, perché significa, insomma, la lingua parlata per i brevetti diventa poi la lingua ufficiale, ma è anche economico, come vorrei capire dall'ingegnere Carlo Luigi Iannone, che è responsabile dell'area brevetti per Barzano e Zanardo, la società che si occupa di proprietà intellettuale, e avete depositato 6.500 brevetti e 6.100 marchi nel 2010. Ingegnere Iannone, buonasera. Buonasera a lei. Ci faccia capire perché brevettare, oltre che in inglese, anche in francese e in tedesco, o oltre che l'inglese si può farlo in alternativa in francese e in tedesco, dovrebbe essere un danno economico per le nostre imprese? Più che un danno economico, è un danno a livello di tutela, perché le nostre imprese si troverebbero a dover discutere sui brevetti, che sono uno strumento legale, in una lingua che non è la loro, società di paesi di lingue come il francese e il tedesco potrebbero agire e operare nella loro lingua originale. Il problema è proprio lì. Inizialmente la proposta era per 5 lingue, quindi inclusa anche italiano e spagnolo. L'alternativa proposta era solamente l'inglese. Italia e Spagna si sono, a mio avviso, correttamente opposte a questo compromesso con l'inglese, francese e tedesco. Per la prima volta l'Unione Europea ha preso una posizione netta, andando avanti anche senza l'unanimità su questa storia del brevetto comunitario, che, come diceva lei, va avanti da più di 30 anni, insomma. Ecco, mi faccia capire una cosa però, ingegnere Iannone. Lei dice il costo non sarebbe tanto nella registrazione del brevetto, perché io posso scegliere l'inglese, posso scegliere il francese o il tedesco, ma in caso di contenzioso, cioè quando devi andare a difendere il marchio o il brevetto, oppure qualcuno ti contesta che usando il marchio o il brevetto già registrato, perché lì tutta la pratica legale verrebbe svolta in francese o in tedesco? Esattamente, questo difatti la decisione di oggi si ricollega poi alla decisione della Corte di ieri, che invece ha dato un parere negativo sulla Tribunale dei brevetti. Quindi è un po' in contrasto, perché se non c'è un tribunale unitario dei brevetti diventa un po' difficile poi che si possa avere un brevetto comunitario. Ma secondo lei perché gli altri paesi più piccoli non protestano? Cioè Polonia, Olanda, Grecia, Portogallo, non avrebbero anche loro un problema analogo? Questo è vero, però diciamo che per Italia, per Italia e Spagna è stato anche una presa di posizione politica nel voler difendere la propria lingua, che come lei sa a livello di Unione Europea, a livello di Bruxelles, viene sempre messa più in un cantuccio, e quindi se avessero accettato supinamente questo tipo di decisione probabilmente avrebbero accettato che italiano e spagnolo venissero in qualche modo eliminate completamente dalle lingue ufficiali. Comunque ho capito, il danno è più nel caso di contenzioso legale che non di iscrizione. Cioè le aziende che non hanno una di quelle tre lingue ufficiali sono in difficoltà rispetto a chi va poi a discutere nella lingua ufficiale. È chiaro, devo dire che il fatto che la Spagna, lo spagnolo, essendo la lingua, la seconda o terza lingua più parlata al mondo, non sia stato inserito lascia perplessi anche noi. C'è anche comunque la componente politica che lei ricordava, venne ai nostri microfoni allora ministro Ronchi a spiegare perché l'Italia si era battuta in questo modo. Grazie comunque, è importante anche la parte di consulenza vera e propria all'ingegner Carlo Luigi Iannone di Barzano e Zanardo. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, io vi lascio la nostra programmazione Focus Economia, torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.